denari. Eccoci qua di nuovo insieme per una nuova puntata di Cuore Denari. Le vostre giornate, immagino, saranno piene di impegni. Avrete delle faccende da sbrigare, dei lavori da fare in fretta e subito. Ogni attività, lo sappiamo bene, è diversa dalle altre e richiede un tipo di assetto mentale diverso. È proprio l'assetto mentale l'argomento che tratteremo nella puntata di oggi. Alleneremo questa capacità utilizzando l'innovativo metodo 5A del professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensana ed esperto di sviluppo e potenziamento delle abilità mentali, che è qui in studio con me. Buongiorno professor Iannoccari, anche oggi è tornato, quindi ormai siamo tranquilli che non ci lascerà, continuerà ad occuparsi di noi, nonostante i risultati scarsetti. Assolutamente, molto incoraggianti, anzi, lusinghieri. Anche se le daremo del filo da torcere, lei continuerà a seguirci, passo dopo passo. Cosa diventeremo? Professore Iannoccari, nelle due puntate precedenti abbiamo parlato di come attivare la mente, come focalizzare l'attenzione su ciò che ci interessa in base al metodo delle 5A. Cosa ci dirà oggi di questo terzo argomento chiamato assetto mentale? Siamo proprio curiosi di sapere di più. Ci dica cosa fare, come fare, quali vantaggi possiamo trarre dai suoi insegnamenti e dagli esercizi che ci suggerirà. Faccio una piccola parentesi, intanto che permetto alla sua attenzione di focalizzarsi. Volevo dire ai nostri ascoltatori che forse si sono persi le puntate precedenti, che possono ascoltarle in podcast. Se ogni puntata il professor Iannoccari dà degli esercizi, perché fa il professore e quindi si va a lezione, poi ci sono i compiti a casa. Benissimo, li abbiamo detti, li abbiamo fatti leggere dalla nostra Alessandra De Luca, perché con la sua voce bella e piena vi invoglia a seguirli, ma è probabile magari qualcuno di voi si è perso questi esercizi. Come fare? Basta andare sulla pagina di Cuore Denari e troverete su Facebook gli esercizi di nuovo spiccherati, e quindi non avrete più scuse, vi potrete mettere al lavoro e quindi diventare sempre più intelligenti. Ma oggi, professore, arriviamo all'argomento di oggi, all'assetto mentale. Mi sembra difficile la puntata di oggi, non so come mai. Ce la faremo anche oggi. Intanto volevo dare un caro buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ecco. E poi torniamo sul metodo 5A. Il metodo è nato per allenare la mente e far raggiungere il massimo livello di efficienza possibile attraverso lo sviluppo di 5 aree mentali che abbiamo già ripetuto nei giorni precedenti, che sono l'attivazione, l'attenzione focalizzata, l'assetto mentale di oggi, l'alternanza tra compiti e l'autosviluppo. Oggi lavoreremo sull'assetto mentale. Ma di che cosa si tratta? In effetti è un argomento abbastanza nuovo che deriva dagli studi recenti delle neuroscienze. In particolare parleremo di quando il cervello lavora che emette degli impulsi elettrici. Questi impulsi danno vita a cinque diversi tipi di onde elettriche che vengono misurate con l'elettroencefalogramma, dico bene? Esattamente, Nicoletta. Vede che passetto dopo passetto, vedi, si stupisce anche il maestro. Però a quanto pare nella TAC si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, piccola piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? No, non è che sono dottore, io non lo cervello, so. Cervello, che dice che addirittura che è una cosa che io ho da quando ero piccolo, da quando la nascita. E tu non l'hai mai saputo? Ma se non mi ha dato mai fastidio, come me ne accorgevo? Ed è proprio così. Piccone e Piccone hanno espresso un bellissimo concetto. Ecco, a proposito di attività. Mentale. Quando noi pensiamo, svolgiamo le nostre attività, i nostri, diciamo, quando dormiamo, eccetera, le nostre onde elettriche possono avere delle intensità diverse. Sono cinque. Per esempio, quando dormiamo, queste onde sono lente ampie, come si chiamano delta e teta. Poi durante il dormiveglio, quando ci vengono quelle immagini un po' così irrealistiche, dominano le onde alfa. Mentre quando siamo impegnati a svolgere un compito di concentrazione, l'attività cerebrale si intensifica e si manifestano quelle chiamate onde beta. Se poi la mente deve affrontare compiti in rapida successione, l'attività cerebrale diventa intensa e le onde, chiamate gamma, diventano brevi e rapidissime. Quindi le onde gamma ci fanno affrontare compiti rapidi e veloci, le onde beta ci sostengono in compiti lunghi e di concentrazione. Quindi adesso tra noi ci diremo forza col beta, forza col gamma, sì. Dai, sì. Dai col gamma. Allora. Infatti è proprio così, gli studi per esempio di Ward, Sand, Cooler e Batticciaga. Certo che hanno tutti dei nomi, sì, hanno dei ma come è possibile? Ma li fanno apposta per farci fare ginnastica mentale. Hanno rilevato come vi fosse un aumento immediato di onde gamma quando per esempio i soggetti dell'esperimento riuscivano a risolvere un compito di problem solving, a patto però che fossero già in fase gamma. Se loro erano invece in una fase diversa, per esempio in fase beta, quindi più rilassati, non riuscivano a risolvere subito il compito, quindi avevano altre onde e via. Sì, quindi il concetto è tutto di questione di onda, di onda, onda su onda. Noccari, a proposito di onde, che tipo di onde si stanno attivando durante la trasmissione? Quali onde state attivando voi mentre ascoltate Radio 24 e consigli del professor Iannoccari? Sicuramente sono delle onde che i ricercatori non hanno studiato, ma sono le onde sicuramente più belle e quelle che rendono di più. Non c'è dubbio, Nicoletta, se esistessero sarebbero quelle col sorriso. Delle onde sorridenti. Sì. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio e tu non ci sarai. Non so se sono intelligente, ma sorrido, così no? Si potrebbe dire delle nostre onde. Professore, sono sicura che anche oggi ha un esercizio, un rebus, un indovinello, non so mai come un gioco test per noi. Naturalmente la soluzione la troverete sulla nostra pagina Facebook nel pomeriggio. Allora, professore, siamo pronti per questa sfida? Quella di ieri sono riuscita e poi voglio dirglielo. Bene, chiedo di rispondere a questa domanda. Chi pesa di più? Ludovica pesa meno di Anna. Oddio, ma queste qua sono difficili. No, scusi, Ludovica, non allora, ho capito. Ludovica pesa meno di Anna, ma quanto Carla, che pesa più di Daniela? Chi pesa di più? Ma no, dai, questo non si può fare. Allora, Ludovica pesa meno di Anna, ma quanto Carla? Sì, che pesa più di Daniela? Più di Daniela. Ma io, guardi, faccio già fatica a scriverlo. Sono quattro tipi di cui non conosciamo niente. Ludovica, Anna, Carla, Daniela, peseranno tutti uguali? Sono quattro. Benissimo. Allora, poi facciamo il confronto tra Ludovica e Anna e poi tra queste e Carla e Daniela. Ci sta dando delle indicazioni, professor Iannoccari, sì. Ho capito. Va bene, io non so, l'onda gamma o delta, quella che non mi si è attivata? Qui, qua non è questione di onda, qua non c'è il cervello. Allora, professor Iannoccari, diciamo ai nostri ascoltatori come predisporre il giusto assetto del cervello prima di affrontare un compito. Ci aiuti un po' lei a capire come riconoscere i nostri stati mentali. Ecco, nel compito che vi ho appena proposto è necessario avere un assetto, diciamo, comodo, perché è opportuno fare il compito pezzo per pezzo, sì. Quindi non tutto insieme perché ci confonderebbe, ma dividerlo in coppie e poi diventa facile da risolvere. Se ci sentiamo calmi e rilassati, sicuramente siamo in beta, mentre se ci sentiamo veloci di pensiero, pronti e scattanti, allora siamo in gamma, per cui non riusciamo a distinguere in che condizioni ci troviamo. In base a questi due stati siamo pronti. Due, sono solamente queste due le condizioni quando possibili. Siamo svegli. Io non mi ritrovo né nel beta né nel gamma. E dove si trova? Non lo so, devo trovare la mia onda. Sono quelle onde che stiamo ancora cercando. Bravo. Quelle col sorriso. Bravo, quelle lì. Allora, professore, quindi se dobbiamo svolgere compiti... Sì. Di rapidità, il nostro stato mentale deve essere posizionato sulle onde gamma, per cui dobbiamo attivarci in modo tale che siamo rapidi e precisi come una macchina sportiva. Mentre se il compito richiede concentrazione per un periodo prolungato, come quando per esempio dobbiamo scrivere una relazione, una scaletta, oppure fare dei conti, ascoltiamo Nicoletta Cuore Denari, il sistema deve essere regolato invece sulle onde beta, cioè deve essere comodo, rilassato come se fosse una buona berlina. Professore, mi piace molto la sua idea, vede che è molto creativa anche lei, faccio un po' la professoressa Iannocari anch'io. Mi piace la sua idea dell'auto sportiva e della berlina, dà l'idea del viaggio che in questo periodo di agosto è particolarmente indicata. Ma professore, possiamo decidere quale assetto dare al nostro cervello se non si trova al posto giusto nel momento giusto? Cosa accadrebbe ad esempio se facessimo di fretta i conti o se impiegassimo tanto tempo davanti ad un bivio per decidere da che parte girare? Ci faccia da coach, lei è il nostro coach, è il nostro brain trainer, ci aiuti a superare questa sfida che è molto interessante ed impegnativa. Partiamo da riconoscere che tipo di compito dobbiamo affrontare. Già quello siamo a cavallo. Già quello siamo a cavallo. Beh, se devo scrivere la scaletta della puntata, so che mi richiede un periodo prolungato di lavoro, sì. Concentrazione, per cui il mio assetto deve essere in beta. Viceversa, se devo cercare rapidamente un elenco da un nominativo oppure delle ricerche scientifiche sulle riviste, eccetera, vado sportivamente. Il mio assetto deve essere sportivo, esatto. Ecco, però come faccio a posizionarmi e soprattutto come fare per passare da uno stato mentale all'altro? Ecco, la novità che vorrei dare oggi è proprio questa, che noi possiamo modificare l'assetto. Una volta che riconosciamo il tipo di compito da affrontare, possiamo anche indurre uno stato beta o gamma in base all'esigenza. Professor Iannocari, quindi dalla teoria, sì. Se lei è d'accordo, passerei alla pratica. Facciamo ascoltare gli esercizi che lei ha preparato per gli ascoltatori di Radio 24 e per l'Anico per indurre un assetto beta confortevole per compiti ad esempio di alta concentrazione. Primo esercizio. Prima di iniziare un compito, fare una breve pausa, alzarsi dalla sedia e fare un giro di qualche minuto, oppure due chiacchiere con un collega o con un conoscente, prendere un caffè o bere un bicchiere d'acqua. In questo caso è importante che si stacchi da un assetto di velocità. Dobbiamo in qualche modo fare punto e a capo, girare pagina, e questi sono degli accorgimenti che ci consentono di riassettare. Secondo esercizio. Utilizzare la respirazione. Fare 10 respiri profondi. Inspirare lentamente, facendo gonfiare la pancia come se fosse un palloncino. Poi espirare lentamente. Mantenere le spalle ferme, lavorando soltanto con l'addome. Mentre si inspira col naso e si espira con la bocca, concentrarsi solo sul passaggio dell'aria. Ecco, in questo modo bastano 30 secondi, ma sono 30 secondi che allentano le tensioni, predispongono l'ossigenazione del cervello e danno quell'assetto confortevole che induce le onde beta. Perché la respirazione resetta la respirazione diaframmatica. Terzo esercizio. Prendere una parola qualsiasi e ragionarci sopra, cercando almeno 10 significati e possibili collegamenti. Ad esempio, la parola pane è composta da 4 lettere, fa rima con cane. Il pane è fatto con acqua, lievito e farina, sfama i popoli, si cuoce al forno, eccetera. Il compito va fatto con calma, senza fretta. Ecco, in questo modo noi induciamo la nostra attività mentale a ampliare, ad allargarsi, piuttosto che a rimanere focalizzata su un punto. Cercare 10 significati correlati ad una parola ci consente proprio di estendere il nostro lavoro e quindi di rilassare la velocità. Invece, professor Iannoccari, per indurre un assetto gamma sportivo, quindi per compiti di alta velocità, anche questo è possibile farlo attraverso questi esercizi. Primo esercizio. Se avete appreso l'alfabeto al contrario, dalla Z alla A, recitatelo rapidamente per 3 volte consecutive. In questo modo riprendiamo le briglia e dobbiamo focalizzarci su un'attività, e su quell'attività dobbiamo essere veloci, per cui acceleriamo il pensiero attraverso la recita dell'alfabeto. Utilizziamo all'inizio magari l'alfabeto italiano. Secondo esercizio. Utilizzare la respirazione. Fare 20 respiri veloci alla media di 1 al secondo, cercando di inspirare ed espirare più aria possibile, lavorando sempre con l'addome. Ecco. Di nuovo la respirazione ci aiuta ad attivare il cervello. Esatto, nel senso opposto rispetto all'assetto comodo. Terzo esercizio. Contate rapidamente da 1 in avanti fino a 50. Ogni volta che dovete dire un numero che contiene il 5 o un multiplo di 5, dite boom e battete le mani. Contate il più velocemente possibile e senza sbagliare. Ecco, in questo modo manteniamo il nostro assetto mentale sui binari dell'attività che stiamo svolgendo, facendolo diventare molto veloce. 1, 2, 3, 4, boom, 6, 7, 8, 9, boom e così via. Bello, potrebbe essere anche un gioco da fare in compagnia oppure con sì, i nostri bambini, vero? Sì, di solito lo fanno a scuola, anche proprio come attivazione. Allora, se questi sono gli esercizi per attivare l'assetto e quindi per indurre un assetto gamma o per indurre un assetto beta, intanto voi iniziate a farli, misuratevi, potete farli tutti o insistere magari su alcuni in particolare, professor Iannoccari? Sì, ne abbiamo suggeriti 3, qualcuno si troverà più comodo con un tipo piuttosto che con un altro. Ecco, nella scelta dobbiamo lasciarci guidare un po' dalle cose che ci piacciono di più, sempre. Professor Iannoccari, sempre. Dobbiamo non seguire la testa ma la pancia in questo caso. Tutte e due sono così. Allora, scriveteci sulla nostra pagina Facebook e diteci quali sono i vostri stati mentali più frequenti, i vostri compiti richiedono un assetto gamma, rapido, veloce come un'auto sportiva, oppure confortevole come una comoda berlina, e quali trucchi e strategie utilizzate per passare da un assetto sportivo ad uno confortevole e viceversa. Allora, professor Iannoccari, intanto rimandiamo i nostri ascoltatori sulla pagina di Cuore Denari, dove troveranno la soluzione del gioco test esercizio rebus che dir si voglia, e poi troveranno naturalmente tutti gli esercizi che, se non hanno avuto tempo di segnare nel quadernetto, nel diario, potranno naturalmente riascoltarseli e mettersi al lavoro. Naturalmente insieme agli ascoltatori di Cuore Denari l'aspetto domani per allenare la nostra quarta A, alternanza veloce. E questa tra che i compiti, sarà. Esatto. Quindi come gestire tanti compiti quando dobbiamo passare da uno all'altro rapidamente senza ingarbugliarci. Ecco, però lei gamma, beta, delta, non faccia altro, non faccia tante cose, si ricordi un appuntamento fondamentale domani, non faccia tante cose, non salti di qua e di là. Non attivi tante onde, venga qua domani sempre, me lo dica lei. Tornerò molto volentieri. Alle 11. Grazie, alle 11. Per alternanza veloce tra compiti. Wow, grazie professor Iannoccari. Grazie, un saluto a tutti. Che bontà, ma che bontà, ma che cosa è questa rubina qua? Ok, ci siamo allenati, siete un po' stanche, prendiamoci un caffè, ma ce lo prendiamo con la nostra prossima ospite, la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione all'Università di Bologna, che è tornata a trovarci. Buongiorno professoressa Creglia. Buongiorno a tutti. Io le offro un bel caffè, perché ci tira su, ma anche il cervello ci guadagna, è vero? Assolutamente. Il caffè, che un tempo era bandito dai medici, quasi fosse una sorta di alimento demonizzato, in realtà è stato riscoperto per il suo ruolo funzionale e neuroprotettivo. Il suo ruolo protettivo non è ascrivibile alla caffeina, di cui tutti conosciamo la capacità di aumentare la soglia dell'attenzione, tant'è vero che viene definita una sostanza psicoattiva. Infatti, quando siamo un po' giù ci risvegliamo con il caffè. Il caffè, più lo mandi caffè, giù, più tu tira più su, diceva una famosa pubblicità. È verissimo, ma ti tira su non solo perché c'è la caffeina, ma soprattutto perché sono presenti componenti cosiddetti nutraceutici, cioè componenti bioattivi, che si chiamano per esempio acido clorogenico o caffestolo, che appartengono a delle classi chimiche particolari. In 100 grammi di una miscela di un caffè comune, qual è la qualità arabica, pensate che ci sono un grammo di caffeina, ma ben 3 grammi di questo acido clorogenico. I soggetti non consumatori di caffè introducono meno di 100 mg di questa preziosa sostanza al giorno, contro addirittura 1-2 grammi dei modesti e forti bevitori di caffè. Le linee guida suggeriscono infatti a tutti di assumere 3 tazzine di caffè al giorno per mantenere sveglia la nostra attenzione, ma soprattutto per attivare il nostro metabolismo e per rifornire i nostri organi, in particolare il nostro cervello, di queste preziose sostanze. 3 tazzine di caffè al giorno, non superare le dosi, perché non è che se ne beviamo di più diventiamo più intelligenti, professoressa Creglia, non c'è questo rischio, se no ci faremo il bagno nel caffè. Tra l'altro, al caffè, ma anche al tè verde, al cioccolato, alla curcuma, alle noci, all'olio di oliva, al pomodoro e a tanti altri alimenti, lei ha dedicato pagine molto interessanti nel suo ultimo libro, che mi piace citare perché è un libro molto interessante, fatto per bene, con tutte le notizie più recenti dalla ricerca. Si intitola Nutrire il cervello, come proteggerlo con i suggerimenti della nutraceutica. Ecco, questo mi piace ricordarlo, perché proprio tutti i proventi sono a favore del Centro Studi e Ricerche sul Coma della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, che è un centro in Italia che si occupa proprio del recupero dei pazienti che si trovano in stato vegetativo. Mi sembra che sia lei abbia fatto una bellissima cosa, una bella iniziativa. Vi ringrazio veramente. Lo scopo era proprio quello di diffondere con un linguaggio semplice e fruibile al grande pubblico quelli che sono i risultati della ricerca proprio sul tema nutrire il cervello. Il cervello, come i muscoli e come tutti gli altri organi, deve essere allenato, ma deve essere anche giustamente nutrito in modo intelligente. Professoressa Creglia, questi cibi di cui lei parla possono essere considerati, per i loro effetti benefici, alla stessa stregua di veri e propri farmaci, farmalimenti appunto, come lei più volte in diverse trasmissioni di Cuore Denari li ha definiti? Assolutamente sì, è la stessa parola nutraceutica che ce lo spiega. Nutraceutica è un neologismo che deriva dalla fusione della parola nutrizionale farmaceutico e sta ad indicare quei componenti di alcuni alimenti, non tutti naturalmente, che hanno delle funzioni specifiche di protezione della nostra salute e di prevenzione di patologie cronico-degenerative, quindi dei veri e propri farmalimenti, una farmacia nel piatto. Mi piace. Professoressa Creglia, abbiamo ancora il caffè nella tazzina, che a questo punto si sarà freddata, ma non importa, ce lo beviamo anche freddo. Professoressa Creglia, alla prossima, anzi a domani, buona giornata. Buona giornata a tutti. Noi ci siamo, pronti a condividere con voi anche quest'estate tante buone notizie. Parliamo di tutto, dalla Grecia di Tsipras alla Campania di De Luca. In stile si può fare, saremo in compagnia dei nostri eroi quotidiani, inventori, cervelli che non fuggono, sindaci virtuosi, contadini del terzo millennio. In pratica, aspettiamo solo voi. Si può fare l'attualità anche d'estate con Alessio Maurizi, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio 24. Cuore e denari. Ritorniamo ad allenarci insieme. Abbiamo salutato il dottor Iannoccheri. In questa seconda parte di trasmissione diamo, come di consueto, il benvenuto al dottor Franco Confalonieri. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dottor Confalonieri, prima di tuffarci, non a caso uso questo verbo sull'argomento di oggi, vogliamo ricordare le regole per nuotate sicure e allenanti? Certo, la prima regola era attenzione ai rischi, perché comunque l'acqua, ovviamente non tanto l'acqua della piscina quanto quella del mare e quella del lago, sono ambienti a rischio, quindi attenzione alla temperatura, attenzione alla profondità, attenzione alle correnti, Ricordiamo la regola base del salvamento in acqua, cioè quella del compagno in acqua, mai in acqua da soli. La seconda regola era, se dobbiamo allenarci, ricordiamoci che il nuoto è tecnicamente uno sport difficile, quindi piuttosto che nuotare a lungo male, meglio fare pause frequenti anche ogni vasca, ma pause che ci consentono il controllo della nostra tecnica. E la terza regola, se siamo nuotatori relativamente evoluti, alterniamo due o tre stili, perché in questo modo ai benefici sul piano cardiovascolare si uniranno anche maggiori benefici sul piano muscolare e articolare. E poi diciamo è anche un pochino più divertente. Esattamente, molto più divertente. Beh, difatti ieri abbiamo consigliato tutto sommato al non nuotatore, a quello che usa il nuoto soprattutto per rilassare i propri muscoli o allenare il proprio sistema articolare in modo alternativo, abbiamo proprio consigliato questa alternanza di galleggiamento, cammino e nuoto. Al nuotatore evoluto, ovviamente, le alternanze che possiamo consigliare sono l'intensità, la velocità e la tipologia dello stile praticato. Non ci sono. Poi naturalmente si può aggiungere anche l'utilizzo di diversi ausili che possono rendere più divertente la cosa, o più varia, quindi la tavoletta per le gambe, il pull buoy per le braccia, i vari strumenti che modificano il galleggiamento, che ci frenano, tutti strumenti che ci consentono di variare l'attività in acqua. Allora, dottor Confalonieri, prepariamo la nostra borsa. Cosa ci mettiamo dentro? Tutti questi attrezzi oggi che lei mi ha detto, io non li conosco, ma quindi li lasciamo un attimo da parte. Cuffia? Ma oggi potremmo anche farne a meno. Occhialini? No, assolutamente. Pinne? Pinne no, no, no. Cosa ci può? Il costume sì, però. Costume sì. Già questo rumore rinfresca, dottor Confalonieri. Assolutamente. Dottor Confalonieri, seconda puntata dedicata agli sport acquatici. Il suo allora è un grande amore. Ma da che cosa nasce questa sua passione? Beh, innanzitutto dalla constatazione che l'acqua è da sempre strumento di gioco e di piacere. E poi dall'evidenza scientifica che il muoverci nell'acqua ci consente di avere dei benefici sconosciuti al movimento sulla terra, proprio perché il mezzo è diverso e quindi sia in termini di intelligenza neuromuscolare, sia in termini cardiovascolari, sia in termini muscolari, l'acqua offre tantissimi benefici. Poi è chiaro, l'acqua batte terra 1-0 secondo lei? Io sono sempre per il rispetto delle individualità, però l'acqua di per sé diversifica e quindi noi viviamo sulla terra tutti i giorni, tutte le ore, quindi andare nell'acqua è comunque qualcosa di diverso e il diverso di per sé porta beneficio. Confalonieri, c'è qualcuno che ha imparato per amore suo a nuotare? Ma penso proprio di sì. Veramente? Sì, sì, assolutamente. Ma è un po' Vanesio lei, eh? No, sono consapevole delle mie... Allora, a parte questo, non voglio scoprire gli altarini del dottor Confalonieri, però una cosa è certa, i nostri ascoltatori avranno ben chiari i vantaggi dell'esercizio in acqua, dolce, salata che sia, piscina con acqua di mare, piscina in acqua clorata, dolce, rispetto a quelli di terra. Ma, dottor Confalonieri, non sia troppo di parte, lei ha detto che rispetta l'individualità e quindi ricordiamo anche se ci sono degli svantaggi a fare attività in acqua. Beh, gli svantaggi legati all'attività in acqua sono innanzitutto la difficoltà del muoverci in acqua e poi gli svantaggi perché ha grossi problemi dal punto di vista cardiovascolare, perché l'immersione nell'acqua è di per sé stressante, come accennavamo. Peraltro, purtroppo mi devo ancora schierare in favore dell'attività in acqua, c'è stata proprio la grande rivoluzione della fine degli anni 90 a livello mondiale, è stata non limitare l'attività in acqua al nuoto con i suoi diversi stili, ma introdurre tutte quelle attività dell'acqua che si svolgono in verticale, perché in acqua noi possiamo muoverci in orizzontale, ed è il nuoto con le diverse tecniche, oppure in verticale. E quindi l'acqua gym, acqua combat, idrobike, acqua fusion, acqua zumba, chi più ne ha più ne metta. Sì, anche qui forse è utile fare un po' di chiarezza. Bravo, perché i corsi sono tanti, ci si iscrive, si fa magari il corso, ma non abbiamo ben chiaro come si sceglie, allora, quindi caratteristiche, in modo che noi scegliamo il corso in base alle nostre esigenze. Le piace, perfetto, questo? Esistono, perché così andiamo di gradualità e individualità, che non c'è l'R, ma è ugualmente importante. No, ecco, qui è giusto fare un po' di chiarezza, nel senso che noi abbiamo tre grandi categorie di attività in acqua. Abbiamo l'acqua gym come tale, quindi senza l'utilizzo di attrezzi particolari, proprio il movimento nell'acqua con la musica. Abbiamo la ginnastica in acqua con i grandi attrezzi o con i piccoli attrezzi, quindi si pensi alle pinnette, si pensi ai tubi, si pensi alle palette e a tutti quegli attrezzi, i guanti che ci consentono di diversificare gli esercizi di ginnastica che facciamo in acqua. E poi abbiamo tutta l'attività in acqua con i grandi attrezzi e quindi soprattutto la bike e il treadmill, che sono il tappeto, che sono gli attrezzi che adesso si stanno maggiormente diffondendo. Quindi sono tre tipologie di attività molto molto diverse da loro e anche con obiettivi diversi. Quei sono, dottor Confalonieri, non ci lasci sui carboni ardenti. Beh, diciamo che la ginnastica in acqua è molto spesso associata anche alla musica, a diverse tipologie di musiche, quindi la zumba piuttosto che il latinoamericano, piuttosto che l'acqua gym classica come la si intendeva una volta, e quindi è un'attività prevalentemente ludica, quindi con obiettivi di divertirci nell'acqua senza grossi obiettivi di tipo fisiologico, mentre l'utilizzo degli attrezzi determina un significato dell'attività un po' diversa, quindi o un'attività finalizzata al potenziamento muscolare o al recupero muscolare selettivo, o soprattutto per l'hydrobike e per il treadmill un obiettivo allenante, cardiovascolare e dimagrante. Quindi ecco, l'acqua fitness più per il divertimento, gli attrezzi per fare un lavoro più specifico con gli obiettivi fisiologici. Quando ci sono gli attrezzi sappiamo che qualche cosa succede a livello muscolare. Certo, ecco, esattamente. Questa è la grande differenza, no? Liberi è un po' più un divertimento, un rilassamento, un momento ludico, anche se comunque allenante. Con attrezzi e attrezzini il nostro muscolo viene in qualche modo stimolato e disegnato. Ecco, questa precisazione è perfetta. È perfetta ed è anche estremamente utile. Poi riguarda tutte le attività. È chiaro che in acqua assume un valore diverso perché è difficile muoversi in acqua, però nel momento in cui noi ci muoviamo liberamente c'è di solito un coinvolgimento globale della muscolatura e l'esercizio è difficile dal punto di vista coordinativo, dal punto di vista motorio, però è anche libero e divertente. Più l'esercizio è guidato da un attrezzo, più l'utilizzo muscolare sarà selettivo, più otterremo degli obiettivi specifici, misurabili, precisi, però ci sarà molto meno spazio per il divertimento piuttosto che per la fantasia. Allora, dottor Confalonieri, parliamo di acqua fitness. Lei oggi vuole parlare di acqua fitness a bassa intensità. Me lo diceva prima di entrare in onda. Che cosa significa? Esiste anche un'acqua fitness ad alta intensità? Inizialmente la ginnastica in acqua è nata proprio con l'idea della musica, del divertimento, del lavoro anche molto molto intenso, molto molto impegnativo, sicuramente efficace da un punto di vista cardiovascolare, in alcuni casi efficace anche in termini di dimagramento, ma poco specifico da un punto di vista dell'utilizzo muscolare e dello sviluppo della capacità di muoverci bene nell'acqua. Sì. Invece l'acqua è estremamente utile anche per tanti tra i nostri ascoltatori o tanti tra noi che magari non sono in grado di fare allenamenti intensi o che magari non sono in grado di muoversi nell'acqua con movimenti particolarmente complessi. Quindi andrebbe proprio recuperata tutta una ginnastica in acqua, un'acqua fitness a bassa intensità, cioè con pochi movimenti semplici ed eseguiti lentamente, perché questo comporta il fatto che questa attività sia praticabile da tutti e soprattutto il movimento eseguito lentamente e semplice è un movimento che tutti sono in grado di fare. Quindi io raggiungo, proponendo questo tipo di movimenti, esattamente gli obiettivi che mi ero posto. Quindi possiamo dire che la bassa intensità porta maggiori benefici a livello articolare e muscolare? Esatto, e soprattutto porta benefici molto più precisi. Cioè, se io voglio lavorare, per esempio, sul rafforzamento dei glutei, piuttosto che sul rafforzamento dei degli addominali, piuttosto che sul rafforzamento dei muscoli della gamba, devo lavorare o con gli attrezzi, come si diceva prima, o a bassa intensità e con movimenti semplici. Ed è forse questa un po' la cosa che rende questa attività così un po' alla portata di tutti, il fatto che i movimenti siano lenti, semplici e quindi più facili da eseguire. Esatto, perché più in sintonia con il nostro movimento, il nostro muoversi in modo naturale. Sì, perché è giustissimo, perché muoversi nell'acqua non è naturale. Noi ci muoviamo naturalmente sulla terra, non nell'acqua. Quindi più il movimento nell'acqua è semplice, è lento e facilmente eseguibile, meno difficoltà avremo a farlo, più potremo sfruttare tutti quelli che sono i benefici dell'acqua senza risentire di quelle che sono le controindicazioni legate al mezzo diverso. Perché ricordiamo che intanto che noi lavoriamo, anche l'acqua lavora con noi, esatto. Ci massaggia, vero? Certo. È un massaggio naturale fantastico. Per certo. Cui ci sfina anche un po' la figura, questo spinge tante donne a camminare sulla battigia e ad avanzare, magari a camminare con l'acqua a livello dell'ombelico o a fare delle passeggiate proprio là dove il mare lo permette con l'acqua a livello proprio delle spalle. Sì, diciamo che nell'acqua manca il peso, ma c'è la resistenza all'avanzamento. E vuoi mettere? Meglio acqua di mare o basta, piscina? I vantaggi sono identici proprio in 30 secondi prima di andare sulle strade? Ma sì, direi che in termini di acqua fitness sono abbastanza analoghi, non ci sono differenze fondamentali. Mentre nel nuoto le differenze in termini di galleggiamento erano significative, nell'acqua fitness direi che tutto sommato sale o acqua dolce non cambia tanto. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme qui, sempre in acqua, col dottor Confalonieri. Evviva! Cuore e denari. Ehi, lo sai che cosa ho fatto? 20 vasche a farfalla, lo sai come mi sento le braccia adesso? No. Come se potessi volare. Sei in allenamento? Sì, voglio attraversare l'oceano. Ah, sì? Beh, noi non vogliamo naturalmente attraversare l'oceano a nuoto, ci basta stare qui seduti sotto un ombrellone con il nostro dottor Franco Confalonieri, che oggi ci sta facendo una lezione sull'acqua fitness. Dottor Confalonieri. Sì, stavo pensando che si allenava a farfalla per attraversare l'oceano, ero rimasto dentro dura, duretta, farfalla proprio durissima. Allora, stiamo in acqua. Proseguiamo il nostro allenamento, certo. Proseguiamo, parliamo di acqua fitness per tonificare e dimagrire. Quanto è davvero efficace quello che lei ci sta proponendo oggi? Perché viene spesso vissuto come un passatempo in vacanza. No, beh, non è miracoloso, ma è sicuramente efficace, nel senso che nell'acqua, come si diceva anche a proposito del nuoto, comunque si consuma parecchie calorie, per esempio parecchie di più di quelle che consumiamo camminando o andando in bicicletta. Per la tonificazione, per il dimagramento, nell'acqua non possiamo applicare livelli di forza molto alti, quindi è proprio un'attività tonificante, però non facciamo mai della forza massima. Rispetto al dimagramento, l'acqua è efficace anche perché comunque c'è questo massaggio dell'acqua legato al movimento contro resistenza, che di per sé riattiva tutta quella circolazione e quel microcircolo superficiale, e quindi riattivandolo, riducendo le zone infiammate, riducendo le zone un pochino più patologiche, sicuramente facilita anche il recupero di una figura e di un tono muscolare adeguati. Piace molto alle donne, ma farebbe bene anche agli uomini, secondo me. Sì, farebbe bene agli uomini, anche perché l'attività in acqua è assolutamente efficace nel riequilibrare tutto quello che è la postura. Diciamo che soltanto stare fermi nell'acqua, stare in equilibrio nell'acqua, è un lavoro eccezionale per tutto il core, questa zona muscolare che sta intorno alla nostra vita, che adesso è molto di moda. Come mi capita, core stability, bravissima, ecco. È proprio l'acqua, in acqua noi facciamo della Core Stability Naturale, quello che dico sempre io, che era inutile inventarsi il Pilates, bastava stare in piedi nell'acqua e si faceva un Pilates naturale assolutamente efficacissimo. Poi magari sono un pochino di parte, ma non così tanto, non così tanto. Quindi se il, diciamo così, per ammorbidire un po' questa affermazione, se vi manca il vostro appuntamento col Pilates, vedete che l'ho messa lì. Andate in acqua, piedi belli appoggiati per terra, acqua fino magari fino alle spalle, 1,30 m, 1,40 m è l'altezza ideale. Poi? E diamo poi proprio la posologia. La posologia è proprio, iniziate semplicemente lavorando sull'equilibrio, quindi vedrete che l'equilibrio non è stabile, perché comunque nell'acqua non abbiamo un equilibrio stabile, e poi cominciamo con le varie andature. Quindi cominciamo con un cammino classico, poi facciamo il cammino a ginocchia alte, poi facciamo il cammino richiamando la gamba dietro, poi facciamo la corsa in acqua lenta fino alla corsa in acqua veloce. Sono tutte esercitazioni straordinariamente efficaci in termini di core stability. E oltretutto, noi nell'acqua utilizziamo molto maggiormente tutta la muscolatura posteriore, quindi parte posteriore della coscia, bicipite femorale, glutei, lombari, e quindi andiamo a riequilibrarci anche da un punto di vista proprio estetico, non soltanto funzionale. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'indietro. Mentre tutta. Dottor Confalonieri, ci sono degli attrezzi particolari che dobbiamo procurarci per un buon allenamento di acqua fitness? Le pinne servono? Ma le pinnette possono servire, forse sono l'unico degli attrezzi di cui si parlava in questa bellissima canzone. E perché... Un cappellino per non prendere troppo sole sulla testa? Bagniamo la testa regolarmente. Bravo. Non il cappellino. E per chi è pelato? Così bello, bagniamo la testa regolarmente. Sufficiente? Mettiamo. No, lo sai, brutto. Evitiamo, no? La cuffia, va. Dai. Bene, mettiamo il cappellino. Le pinnette possono servire perché aumentano la resistenza che incontra il piede, così come i guantini che adesso sono diffusi in tanti esercizi. Nell'acqua, diciamo che uno degli effetti benefici che ha l'acqua è che aumenta la resistenza, quindi qualsiasi attrezzo contribuisca ad aumentare questa resistenza aumenta l'efficacia del lavoro. Non servono i guanti che usiamo per lavare i piatti? No. Sono come dei guanti palmati che rendono le nostre mani simili alle zampe dell'anatra, per dire, così come la pinetta. Ma direi che, per tornare alla domanda, l'attrezzo base è quel tubo colorato che è stato una delle grandi rivoluzioni introdotte nelle attività in acqua. È utilissimo per imparare a nuotare, utilissimo anche per fare ginnastica in acqua. Si perché vedono ovunque. Sì, ma sono utilissimi, perché io col tubo posso veramente fare di tutto, per fare esercizi specifici per le braccia, esercizi specifici per i pettorali, esercizi specifici per le gambe, perché è chiaro, lo uso come punto d'appoggio, lo uso come resistenza allo spostamento degli arti, lo uso come supporto per il galleggiamento. Vabbè, e ho la possibilità di fare moltissimi movimenti. Oltretutto, più il tubo è lungo, più il tubo è denso, maggiore è la difficoltà di lavorare. Quindi è un attrezzo, non li vendo io, giuro, per cui non ho un interesse. Mi ha convinto sul tubo. Tubo batte tavoletta 1-0 o per tutte e due? Per l'acqua fitness assolutamente il tubo, a tavoletta è quasi inutile. Fantastico, allora la tavoletta che è anche un po' ingombrante. Esatto. Ecco, la lasciamo in cabina. Sì. Per un altro allenamento. Allora, altezza dell'acqua in cui lavoriamo, ecco, fa la differenza, ecco, perché ecco. È un'altra osservazione molto intelligente. Molto. Cosa avrò mangiato stamattina? Non lo so. Sarà il dottor Iannocchi. No, secondo me, a furia di frequentarmi, l'acqua adesso comincia a conoscerla davvero bene. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara. l'altezza dell'acqua cambia tutto, cambia tutto. E qui bisogna stare attenti. Dove andrò a finire? Per gli ascoltatori, io, ecco, ditemi se non vi amo. Ecco, fatevi questa domanda. Allora, dottor Confalonieri, andiamo su. Va bene, dicevo, l'altezza dell'acqua è fondamentale. E qui bisogna stare molto attenti all'altezza dell'acqua, soprattutto perché si può trascurare l'importanza che ha l'affetto, e quindi pensare che l'esercizio che stiamo facendo sia utile invece diventa controproducente. Cioè, mi è capitato di vedere gente a cui dice: vai a camminare nell'acqua perché ti fa bene per la colonna. Ma è evidente che se io cammino nell'acqua a 1,10 m, un metro o un metro, per la colonna non cambia nulla, perché il peso sulla colonna rimane esattamente lo stesso. Quindi camminare 1,10 m per chi ha le gambe lunghe vuol dire arrivare Anche se arriva all'altezza della colonna, tutto il busto ce l'ho fuori. Ok. E quindi il carico a livello lombare rimane praticamente lo stesso. Quindi, per avere benefici in quella zona precisa che vogliamo allenare, allora, deve essere immersa nell'acqua. Questa è una regola? Sì, sì, direi che già questa è una buona regola base. Per essere ancora più precisi, direi, se dobbiamo lavorare sui piedi, sulle caviglie, va benissimo anche lavorare in acqua bassa, come abbiamo accennato quando parlavamo del cammino nella prima delle nostre chiacchierate di questa settimana. Per quanto riguarda ginocchia, va bene l'acqua a 1,10 m. Per quanto riguarda l'anca e la colonna lombare, ci vuole l'acqua almeno 1,30 m, 1,40 m, poi chiaro tutto va rapportato all'altezza di una persona. Infine, per le spalle dobbiamo lavorare in immersione, quindi con la spalla a livello della superficie, quindi, dell'acqua. Quindi, come avevo detto io. Sì, ma siccome io sono laureata devo dirlo in un altro modo, sennò cosa sono venuto a fare? Invece di 1,20 m, 1,30 m, no, che uno sarà lì a dire: ma quanto misurerò? No, perché è vero, però attenzione, se dobbiamo lavorare per la colonna lombare o per le anche, non è sufficiente avere l'acqua a quell'altezza, perché è il peso della parte superiore che conta. Diciamo, quindi io devo stare, in più, dai, devo stare completamente immerso fino alle spalle, perché in questo modo scarico la colonna lombare e le anche del peso del corpo. Abbiamo capito, grazie per la sua laurea in medicina. Vede che alla fine a studiare si guadagna e si fa un servizio anche agli altri. Quindi l'altezza dell'acqua fa la differenza. Certo. Bisogna scegliere l'altezza giusta in base al gruppo muscolare o articolare, all'obiettivo del lavoro. Anche la durata del tempo di allenamento può fare la differenza: 10 minuti, mezz'ora, 20 minuti. Certo, certo. Un'altra cosa, lei ci aveva detto, l'abbiamo fatto per il cammino, che alternando l'intensità del movimento si produceva un effetto che piace a tutti noi, che è quello di bruciare i grassi. Funziona anche in acqua? Fantastico. Allora unisco la risposta a queste due domande. Si sta innamorando, eh? Sì, sì, sì, perché sono veramente senza parole. Ecco, dicevo, unisco la risposta a queste due domande con una sorta di programma ideale d'allenamento per chi voglia fare dell'acqua fitness. Quindi lavoro ideale è dai 30 ai 40 minuti, minimo 15, massimo 45. Una prima parte e deve essere proprio di riscaldamento, quindi rilassamento, riscaldamento, diciamo armonizziamo il nostro corpo col nuovo ambiente, cioè con l'acqua, entriamo saltellini, proprio in contatto, in relazione, no, proprio attività lente, movimenti lenti, rilassamento, galleggiamento e via dicendo. La seconda parte io la sfrutterei proprio con una tipologia di lavoro simile a quell'intervallo che abbiamo visto per la camminata. Quindi alterniamo 30 secondi di attività intensa, magari con la musica divertente, con 30 secondi di rilassamento, di stretching e di pausa. Terza parte scatenate, no. No. Musica soft, musica rilassante, movimenti lenti, andiamo a bruciare i grassi, perché ormai è mezz'ora che stiamo lavorando. Fantastico. È tutto di 30 secondi in 30 secondi? No. Primo blocco è attività continuativa, blocco centrale interval training, quindi alterniamo, terzo blocco attività continuativa. E voilà, e torniamo che siamo praticamente nuovi da queste vacanze. Salutiamoci, usciamo dall'acqua, lei tornerà domani? Sì. Docciato, profumato, pronto per una nuova puntata. Io vi do appuntamento naturalmente domani alle 11. Ringraziamo il dottor Franco Confalonieri. A domani per una nuova puntata per allenare corpo e mente.